Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Torna l'appuntamento quotidiano estivo con gli incontri con i grandi protagonisti del cinema, della musica, della cultura. Oggi parliamo di una coppia di scrittura ma anche coppia nella vita. Lui, Romano, esordisce in teatro come attore nel 1981. Nel frattempo si avvicina anche al cinema, prima come semplice comparsa, poi come protagonista di alcune opere prime. Si fa conoscere al grande pubblico con Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi e Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone, ma anche con La carne di Ferreri e L'ora di religione di Bellocchio. Da lì una carriera sempre in ascesa. Nel frattempo si sposa con un'attrice che diventerà presto anche scrittrice. Con Il catino di zinco è finalista al premio Campiello. Con Non ti muovere vince il premio Strega e il premio Grinzane Cavour e vende quasi 2 milioni di copie. Con Il romanzo Venuto al mondo vince il premio Campiello. Stiamo parlando ovviamente di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. È stata una, come dire, è stato un processo molto naturale. Ci siamo ritrovati, abbiamo fatto dei cammini molto individuali, cioè lei è stata l'attrice che è stata e poi ha scoperto il vero, come dire, la vera vocazione della sua vita, che è la scrittura. Io ho fatto il mio mestiere e poi ci siamo incontrati grazie soprattutto attraverso i suoi libri. Credo che sia stato tutto molto naturale. Se a ripensarci, non c'è stato nessuna intenzione, nessun disegno. Da studente avevo paura del sangue. Durante le lezioni di anatomia me ne rimanevo sempre un po' in disparte. Poi una mattina, nel cesso degli studenti, presi una lametta e mi ferii qui. Tendine flessore sinistro. E aspettai di vedere il mio sangue volare nella lavandina. È speciale il tempo che corre sulla carne incisa prima che questa cominci a versare, lo sai, Ada? Per una frazione di secondo la ferita rimane bianca. Ho fatto migliaia di interventi e l'incisione è l'unico momento che mi provoca ancora una piccola vertigine, perché la lotta che ho combattuto in quel cesso è ancora viva dentro di me. Per il resto ho sempre fatto il mio dovere, tu lo sai. Io non lo so dove vanno le persone che muoiono, ma so dove restano. So dove restano. Avrei dovuto pregare Dio di entrare nelle mani di Alfredo e salvare mia figlia. Vero, Ada? Una volta sola l'ho fatto. Quando ho avuto paura di non farcela, ho pregato Dio di aiutarmi, perché se la persona che avevo sotto i ferri moriva, con lei sarebbero morti gli altri, i cani, i figli. Sergio da sempre, come dire, è il mio primo lettore, per cui come dire, anche come dire, la persona segreta, quella che comunque accoglie quella fase così indegna anche della scrittura, no? che l'inizio e sono le pagine che poi tu magari taglierai, che toglierai, insomma, quindi come dire, si occupa di quel lavoro così fragile, ecco, che è quello che è il primo lavoro, no? Cioè, dopo il butto iniziale, io lo chiamo così, lui poi lavora su questo libro che ancora non è formato, no? E mi aiuta, mi dà dei consigli sempre per trovare questa forma, che poi è anche la forma della nostra vita, che comunque è una vita di artisti, di due artisti, due persone che si confrontano su tutto, però poi in realtà noi abbiamo come dire, nature e caratteri molto diversi, però poi abbiamo come dire, intenti simili, ecco, e quindi alla fine abbiamo sì, veramente le stesse, direi anche la stessa intenzione etica, per cui poi alla fine quello che diventa, quello che è sicuramente formidabile nel lavoro di Sergio, quando poi lui si mette a trasporre cinematograficamente un mio romanzo, e che si sente da qualche parte che c'è la stessa intenzione etica, cioè sempre la voglia di restituire qualche cosa, una voglia di direi anche di purezza, di abbastanza formidabile, ecco, insomma, di perché credo che poi alla fine questo deve essere, cioè di fronte al lavoro artistico l'artista stesso deve essere, come deve avere un'ingenuità, una NFT, una purezza, che non sempre le persone hanno, no? Perché poi tante volte si pensa invece il lavoro intellettuale deve essere per forza, come dire, filtrato molto. Invece io credo che poi invece, come dire, il gesto deve essere il gesto, iniziare a essere grande purezza. In questo senso siamo molto simili, perché poi siamo due artigiani, due lavoratori dell'anima. Facevo la quinta elementare. C'era un vestito su un banco al mercato. Un vestito di voile a fiori rossi. Era sabato. Giravo per il mercato, ma tornavo sempre a quel banco per guardare il vestito. Ci stava un uomo che piegava le magliette. Lo vuoi provare? Mi dici. Io gli dico che non ho soldi. Ah, provare mica costa, mi dici. Allora io salgo sul camion, mi provo il vestito dietro una tenda. L'uomo viene anche lui dietro la tenda e mi comincia a toccare. Ti piace il vestito? Mi dici. Io non mi posso muovere. Così rimango ferma mentre mi tocca. Dopo è tutto sudato. Non dire niente a nessuno. Mi regala il vestito. È la prima volta che lo racconto. Domani sera torna mia moglie, le dico tutto. Tutto. Venuto al mondo, è il prossimo. Ce ne sono ancora altri, però non li avete ancora affrontati. Dovete lavorare ancora molto per. Anzi, tu devi lavorare ancora molto per rendere tutti i libri di Margaret. Ma adesso vediamo, insomma, il film è tratto dal libro di Margaret, Avvenuto al mondo, è finito, se ne parlerà, ne parleremo quando uscirà quest'autunno, insomma. Poi per i progetti futuri io torno un po' a fare l'attore, Margaret si ricomincia, riapre la pagina e ricomincerà a scrivere un nuovo romanzo, insomma. Perché sei così arrabbiato, Marcello? Ho paura di invecchiare. Paura di morire. Si invecchia quando si comincia ad assomigliare al proprio padre. Ah, io mio padre non l'ho mai conosciuto, sa. Sono stato concepito in volo. Non vedrò più tua figlia, eh? No. Se lei lascia Rosa adesso, quella ci odierà tutta la vita. Si ricorda tutto. Come sua madre. Io amo mia moglie. Ha un gran bel collo. Sì. Senta. Sì? A lei perché mi dà del tu? Potrei essere tuo padre. Bastardo. I've awakened to see what you've done. What can I do but pack up and run? Now I know. Penserai anche agli altri romanzi che tra virgolette mancano, tra virgolette ovviamente. Non credo che siamo obbligati a fare ogni volta di un romanzo di Margaret, anche perché Margaret non pensa mai al cinema quando scrive. È sempre un fatto successivo, credo, no? E un fatto al quale penso forse più io. Fatalmente, perché poi in realtà il fatto che noi siamo sposati e siamo una coppia artistica, e io sono uno scrittore e lui è un regista, e quindi insomma, in qualche misura è fatale che uno dica, beh, ogni volta, insomma, è che lui. Ma in realtà non è così. Quando dice, io ho una scrittura molto visiva e visionaria, perché per scrivere devi avere delle visioni, cioè, come dire, io in presente vedo delle scene, ho come delle intuizioni, e forse questo perché poi in ogni esperienza artistica affluisce tutte le esperienze della tua vita, ma anche, e quindi naturalmente anche tutte le tue esperienze artistiche. Quindi io ho anch'io avuto un passato molto lungo di teatrale, quindi credo, insomma, c'è come dire, sento molto, scrivo con lo sguardo, scrivo, cioè, ecco, Sergio una volta ha detto, insomma, la scrittura di Margaret prima di leggere la vedi, no? E questa è una cosa, però non è, questo non ha niente a che vedere con le sceneggiature, non ha niente a che vedere con con il cinema. Io credo che i grandi romanzieri hanno sempre fatto vedere molto, hanno sempre indicato una strada da qualche parte. Poi sta, come dire, la regia è una cosa successiva, il film è una cosa successiva, perché lui naturalmente ogni volta cerca e trova la sua strada, che è completamente autonoma. Infatti credo che la bellezza poi delle trasposizioni cinematografiche di Sergio è il fatto che comunque si sente che sono figli del romanzo. E quindi c'è un background molto forte alle spalle, sente che dietro c'è una densità anche nei personaggi, nella loro storia, eccetera. Però sono come dire, c'è un'autonomia totale. Insomma, se nessuno se lo sapesse, nessuno si chiederebbe a quale libro appartiene questo film. Insomma, credo che la storia dell'arte si scriva insieme in tutte le forme di arte. Italia. Scusa, ti ho svegliato. No. Sto andando. Dove? Alla stazione. Parto, te l'ho detto. È nata la bambina. Bella. Bella, sì. Come l'avete chiamata? Angela. Sei felice? E come faccio a essere felice? Posso vivere senza di te? Sì che puoi. E per il nostro primo appuntamento con Voci in Scena è tutto. Ci ritroviamo domani alla stessa ora.